sua nuova grida. Il prossimo sole che sorgerà grida la produttività. Offriranno dolce insetto ma il fiore che sboccia di notte emana senso di morte, fragranza l'odore dolce che sfocia in nausea. Non sa di fittizie dolcezze, vive di sterilità. Vomita la sua nausea, il suo odore ascolta. Now they are in confinement. Now.